to Rock FM. Grazie Angelo, grazie Rino, dedicato ad Alex. Parental Advisor. Questo programma contiene linguaggio offensivo. Ogni riferimento a cose, persone ed avvenimenti è puramente casuale. Connessione fase ascendente. Connessione fase discendente. Coordinate 3, 2, 8, 7, 3. Voltaggio costante. Segnale in kilohertz. Un kilohertz c'è. Il kilohertz è... Siamo a posto. Non manca. Ce l'abbiamo ancora. Un kilohertz. Connessione. Connessione effettuata. Siano. Sì. Ascolta. Dimmi tutto. Il computer mi ha dato altre coordinate. Come ti ha dato altre coordinate? Sì, così atterro davanti la radio. Dammi le nuove coordinate. Ok, va bene. Dammi le coordinate. 5.8.7.33. Ripeti, non sento. 5.8.7.33. Sto virando. Viro ancora a sinistra 2 gradi. Attento. Attento cosa? Attento. Entro in atmosfera. Attento. Welcome to the Gaucho Show. Qua proprio mi perseguita. Mi sembra di sì. Mi perseguita. Aiuto. Non possiamo farlo fuori, cioè definitivamente. Il problema è che non cresce. Non cresce. Come è possibile sta cosa? Buona serata a tutti quanti, questo è il Gaucho Show. Diciamo che è l'ultimo Gaucho Show della storia di Rock FM. Facciamo un applauso a Rock FM, scusami. Rock FM che effettivamente ci ha dato tantissimo in questi anni. E ci ha dato anche l'occasione di poter tornare in onda. Assolutamente sì, quindi vogliamo ringraziare tutta la dirigenza, naturalmente tutti quelli che sono i piani altissimi di questa azienda che ha permesso tutto questo in questa settimana. E poi, dopodiché, naturalmente i grandi amici, gli amici di sempre, Marco Gravelli, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, perché sennò stiamo qua mezz'ora a salutare. Citate solo me. Ma tu sei il direttore, quindi di conseguenza poi salutiamo tutti quanti con il cuore. Il direttore a cascata. Non possiamo fare una mezz'ora di saluti perché sennò ci commuoviamo fin da adesso. Non deve essere una trasmissione triste. Assolutamente triste? No. Ma chi è triste? Ma assolutamente. Ma mai triste. A differenza degli altri Gaucho Show non abbiamo telefonate. No, non telefonate. Abbiamo niente. Non abbiamo niente. Non siamo nudi. Completamente nudi. che bella immagine. Assolutamente sì, cioè volevamo farlo una volta nella vita e siamo nudi, che bello, oh, finalmente. Oh. E poi, visto che siamo nudi, vogliamo sentire qualcuno che di nudità ne capisce qualcosa? Pronto? Chi è? Io lo so chi è, perché, no, cioè, figurati. Pronto, Nando, pronto! Nando, ma sei ancora fuori? Sei fuori ancora, Nando? Ma come sono fuori io? Direttamente dalla capitale, il nostro amico Nando. Nando. Ciao, ciao Nando. Allora, Enrico, come sta? Enrico, oggi sta a lavorare. Sta a lavorare? Ha iniziato a lavorare? Ha iniziato ancora a lavorare, Enrico? Sì, perché dopo che non ci siamo più sentiti, sì, quando erano un paio di mesi che si sentiva, quando sì, che si sì, giusto un paio di mesi. Giusto sì, due mesi so, economici. Dal 98! Dal 98! Dal 98! Dal 98 a mo quanto fa? Due mesi! Due o tre esatto, mesi, sì. Sì, sì, sì. Da allora io sono andato a lavorare a Radio Rock. Tu sei a Radio Rock, a Roma, quindi ti abbiamo aiutato, abbiamo certamente lanciato una stella nel firmamento del rock, giusto? Ma non ho saputo che era amico tuo, ma me lasciava fuori. Ma no, non è vero. Hai resistito giusto? Invece la formazione, sì, quel Lazzarone ha fatto pippa, ha detto zegna, chi te conosce? Ah, così ha detto? Così. E lui è rimasto a lavorare là. Lui è rimasto a lavorare là, vabbè, dai, ok. Vabbè. Allora, che si dice? Per il resto tutto bene, famiglia, casa, motorini, tutto a posto, l'attività è... Divorziato da fresco, tutto benissimo, Alessio. Tutto benissimo. Sono tornato a nuova vita. Ok. Quindi stavo pensando di venire a lavorare, o che ferma, Milano. Sì, cercano persone, vieni. Guarda, non lo sa. Nando. Stiamo cercando un dirigente generale di Rock FM. Io sono perfetto. Tu sei perfetto. Non ho visto niente mantiglio. Allora, ti interessa il tempo indeterminato? Il tempo proprio indeterminato. Sento un tempo di indeterminato proprio a vita. Ma me la mettendo? Esatto, no, certo, ovviamente, però a vita. No, non posso, posso. Ascolta, ti do l'appuntamento, 1° settembre 2000. Tu aspetta davanti che io arrivo. Esatto. Ok. Da Milano. Milano, davanti alla sede di Rock FM. Tu aspetta che vedrai che avrai un posto veramente con i fiocchi. Nando. Sì, ma me fido di te. Nando, tra l'altro hanno fatto un nuovo parcheggio di motorini qui sotto, ti interessa? Grande! Ciao Nando! Se li hanno già fatti non gli interessa. Non gli interessa. No. Gli interessa quelli che non hanno ancora fatto. Non so, E ora, testa contro il muro. E ora, spalle contro il muro. Ma se ti dico posizione X, ti ricorda qualcosa? La posizione X è l'ultima ad arrivare, ma la più potente. Posizione X a terra. Rock FM tonight. L'ultimo show della vita! Dell'anno! Della vita di Rock FM! E la testa va su e giù! Su e giù! su e giù. E ci piace quando va su e giù. No. Perché ridete? No, così, così. Rock FM è lieta di presentarvi The Gaucho Show. C'è fortissimo, lo notiamo il fratello Roby Corinaldesi. Esatto, bravo. Fratello di sangue. Eh sì, è stata questa la prima sigla del Gaucho Show. La primissima sigla, sì. Effettivamente questa è un po' di da pelle d'oca, però voglio dire che ci fa vedere la nostra città che ormai sta diventando buia. Sta scendendo la notte. Sta scendendo la notte e il rock si fa sentire, si fa sentire di più forte. Ehi amici, le nostre palpebre si aprono. Facciamo un aperitivo. Ok, le pupille si dilatano. Sì. Effettivamente. E abbiamo un amico. Bucala. Smettila. Per favore, smettila. Oh yeah. Ah, un amico che è poi tuo amico che stai, sì, ancora che pagando. Ma lui pensa, ma non è proprio così la cosa. Lo vogliamo presentare come si deve? Ripresentiamolo, dai, come si faceva una volta. Siari, per voi. Ramon, basta. Calmati. Quello lì doveva. Il marchio di fabbrica non manca mai. Hanno appena rifatto gli studi, mannaggia. No. Già li stanno smontando. Vai. Ramon, dici qualcosa, per favore, abbiamo poco tempo, abbiamo i minuti contati qua. Cioè. Padrone, sai a chi? Sì, sì. Sfatiamo intanto questo fatto che. Tu sei il suo padrone. Dai. Accettiamolo, dai. Ok, va bene. Oye, padrone, perdonami, però. Sì. Io tengo i minuti contati. Pure io. Anche. No, padrona, vedi la macchina grigia, quella di sotto? Sì, quella, sì. Ah, ok, sì. Quella sì, della sì, finanza. Sì, quella sì, della finanza. Mi sta aspettando, padrone. Faccio affari tuoi qua. Aspetta te. No, padrone, no. Oggi ho avuto un momento gutalax. Sì. Cos'è il momento gutalax? Ho fatto una cagata. Momento gutalax. Che cosa hai combinato? Mi fa venire la pressione. Dimmi, dici. Padrone, non ti chiedo scusa, dovevo andare a fare la spesa, che tu sei il quanto figlio di... pretenzioso, volevo dire. Figlio di pretenzioso. Sì, esatto. Eh? Il più pretenzioso che tu passi, che tu matti, che tu... Basta, cos'è? Non parli italiano. Però non ti preoccupi. No. Ho tamponato la macchina della finanza. Ecco, la tua macchina. No, padrone, ho preso la tua macchina. Quale? Quale macchina? Bravo, padrone. No, c'è la... Non ho usato la tua Renault 4 modello San Francesco. La Renault 4 modello San Francesco. Sì, è quella che padrone usa per quando arriva la finanza a casa che chiede i soldi delle tasse e dice io sono povero. Ah, sono bravo, bravo. Ma non è vero. Bravo. Però ti giuro, padrone, che la tua Mercedes è ancora pulita. Ma non ce l'ho la Mercedes. La Mercedes modello Ronaldo. Ma è il modello Ronaldo? Cosa serve la Mercedes modello Ronaldo? Dai. Padrone, quella che usi quando vai a trans. No. Graziano. Ma non è vero. Cioè, tu il gaucho mi conosci, no? Gaucho, ti posso giurare su mi-mi-gna. Sì? Su mi-mi? Mi-gna. Chi è? Mi-mi-gna. È mia nina. Ah, ok. Ho ancora imparato io. No. Non ho neanche usato la Ferrari rosso Valentino. La Ferrari. Ma cosa ti serve, grazie, a cosa ti serve una Ferrari rosso? Ma poi il rosso Valentino. Valentino, ma cosa serve? Ma è rosso Ferrari, non rosso Valentino. Ma gli serve per rimorchiare i frocci. Aiuto. Padre, non si fa mancare niente. Le macchine per ogni uso, qua. Ci siamo proprio. Sì, certo. Il problema è che ho usato la Porsche Lost Lobos. No! La Porsche Lost Lobos. Un modello. Ti sei fatto fare un modello unico. Ma non è vero, ma poi Gaccio. Come può essere fatto? Ma quanti soldi hai fatto in questi anni? La Porsche Lost Lobos. Qual è? È quella che usa per trasportare la bamba. Come trasportare la bamba? Usi la Porsche. Usi la Porsche. Ho capito. Ma non è vero. Porsche Lost Lobos. Comunque non ti preoccupi. No. Ho fatto come mi hai insegnato, padrone. Ma io non ti ho insegnato niente, quindi non è possibile. Vai tranquillo. Cosa, come hai fatto? Ho avuto un momento Claudio Villa. Com'è il momento Claudio Villa? Hai cantato e sei andato a Granada? No, cantato e basta. Hai cantato e basta, ecco, vedi? Sì, chissà a chi avrai dato la colpa, no? Sì. Come mi hai insegnato tu? A un altro! Oh, beh, a chi? A te, Graziano. A noi! Bravo. Ma perché a me? Hai fatto bene, uno, cioè, voglio dire, una Porsche personalizzata. Comunque, non ti preoccupi, no. Lasci la Mercedes Guadalupe, la Mercedes Ronaldo. Ronaldo? Il comandante della finanza ha detto di comprarti un bel tapis roulant modello Mastro Geppetto. Perché questo... dove andrai? Tanti anni e solo sega! Ma a Gauge. Andiamo a finire tutti lì prima o poi, mi sto. Che dici? Sì, sì, sì. Vabbè. Faremo una radio fantastica. Sì, sì, sì. Region FM. Yeah. Dall'interno verso l'esterno. Per tutti quanti. Yeah. Dall'interno verso l'esterno. Tutti insieme. Questa canzone non la si può ballare con i pattini, cioè non lo dico subito perché ci hanno provato. Con le ruote di legno. Quadrate. Quadrate. Sono degli zoccoli in pratica. I capelli diventano bianchi, ma l'energia non cambia qui a Rock FM ancora per qualche giorno. Però che ce ne frega, è stata una bella vita e la vita, se è vissuta bene, non importa quanto sia lunga, l'importante che sia. L'ho fatto per te, Gravelli. Tra poco è il mio compleanno, vedi tu. Auguri, cosa ti regalo? Una radio nuova. Lo devo trovare, lo devo cercare. Devo trovare un mio vecchio amico che mette la musica adesso. Lo dobbiamo cercare. Sì, sì, cerchiamo. Ci vorrebbe, lo cerchiamo. L'ho visto in giro da qualche parte qua, adesso sì, lo fatti. Trovo. Troppo tempo la vostra scimmia è addormentata e non sapete come tirarla fuori. È ora di farlo, perché se no non potrebbe essere troppo tardi. Potrebbe essere troppo tardi. Yeah. Come via? Graziano, non ti puoi immaginare chi ho trovato e te l'ho portato qua direttamente dalla Bergamasca, il nostro DJ di tendenza, Vababababayer! Come sta? Sto su, bene. Su, su, Marini! Basta. Allora? Allora tutto bene? Beh, tutto bene? Se saranno qua... quanti anni è? Saranno 6 anni che ti vedo! 6 anni! Ma sei uguale lei stesso! Lei stesso! Lei stesso! Come è? Lei stesso! Allora? Allora smontiamo! Ti ho chiamato apposta! Ma detto te, io... ma sai che pazzesco! Allora. Sono arrivato giù dalla valle apposta, eh! Ti ho chiamato apposta! Stasera avevo la serata al Gabbiano! Al Gabbiano? Perché Gabbiano? Quanta gente c'è al Gabbiano? No, il Gabbiano è chiuso 2 anni fa, ma io continuo a farlo! È una figata, eh! Cioè, da solo su. Bellissimo! Ti faccio sentire l'ultimo dai, disco, pezzo! Disco, vai, vai! Disco! Dai, senti qua! Vai, vai! DJ Valerico Sol, DJ Valerico Sol, DJ Valerico Sol. Allora, maniche corte. Comunque, non sigarette è nelle maniche corte. Sigarette, bravo, bravo. Zoccoli. Vedi, non è mai venuto, ma pantaloncini corti. Bravo, Gaucho. Occhiali da spada. Sei troppo il numero uno. È il numero uno. Occhiali a specchio. Occhiali a specchio, no. Adesso vai tipo Star Trek. Esatto, proprio è una roba pazzesca. Weiner, ti devo dire una cosa. Weiner, ti devo dire una cosa. Chiudiamo. Chiudiamo. Qui si chiude, devi smontare tutto tu. No, ma in che senso? Tu devi farmi questo favore. Ma me? Dobbiamo tirar via tutto. Digli da dove devi iniziare. Digli da dove iniziare. Dal mixer, quindi iniziamo da lì. Cos'è? Il mixer, quello lì, quell'affare lì. Cos'è? Qua con okay. Ma che è uguale, ce l'ho uno simile io, per fare quando faccio le serate. Ok, allora buon lavoro. Ciao Weiner. Ma come? Ciao. Te me la sai che? Sì, ciao Weiner. Allora inizia da là, ciao. Ciao Weiner. No, dai. Sulle mani. Coraggio. Sulle mani. Ciao. Smonta, pulisci bene, che qua tra poco c'è l'assicurazione qua. Ciao! Ciao, ne? Fantastico! Non si può mica stare sempre chini sui libri di scuola, no? L'abbiamo lasciato lì che smonta, eh? Per fortuna! Sì. Salutiamo quelli che non ci conoscono. Ma assolutamente sono sì, tanti, tra sono tantissimi. Ormai sono 8, 5, 6 anni che sarebbe strano il contrario. La cassettina, perché ho ancora le cassettine sì, della sì, macchina. Scherzo. E quando vado a casa stasera me la risento, poi rimango nel garage. Io ho comprato una C45. Esatto. Precisa, così anche se sforiamo un attimo. Vado nel garage, la risento, spengo il motore però. No, sta facendo col motore acceso. Spengo, sì. Ma chi è? Scusami, chi è? È che minchia, ho portato una cassetta di Pachino. Pino Purtecca. Abbiamo Pino Purtecca. Pino Purtecca. Che voglio dire, è una vita che non ti vedo. No. Minchia, mi avete telefonato, la Maddy, pezzo di fichetta di la Maddy, non Maddy, Maddy. Ma lui internazionale. Maddy. Maddy. pezzo di fica. Ma dai. No. Allora. Il concetto è che comunque ho avuto piacere di partecipare all'ultima puntata della settimana. No, no, no, non è l'ultima puntata della settimana. Non è l'ultima puntata del mese? No, è vero che siamo a fine mese, ma non è l'ultima puntata. Non è l'ultima puntata del mese. Ho capito, prima delle vacanze, l'ultima puntata della stagione. No, non è neanche così. E che minchiamo, chiudiamo? Sì. Ma state scherzando? È per quello che siamo qui. Siamo qua. Se no risumano dei cadaveri come noi, cioè, voglio dire. E che minchia. E che minchia. Allora approfitto del mezzo radiofonico per ricordare a tutti gli ascoltatori internazionali e nazionali che voi due siete due grandissimi figli di mignolo. No, grazie. Scusami, guarda, cioè ti ho fatto venire. Passano gli anni, ma mood è sempre quello. Ragazzi, se chiude la radio posso anche dirla la parola. No, bisogna essere corretti fino alla fine. Corretti, appunto. Ma l'avete messo nel culo. Dai! No, ragazzi, la questione è che ho fatto, come avete detto voi, io, amatore latino, insomma, praticamente mi piace talmente tanto lo sticchio. Lo sticchio. Che il medico. Non sono internazionale. Dì. Il medico mi ha diagnosticato il verme solitario alla minchia. Ovvero? Non mi basta mai. Non ti basta, dai, ma. Ma Gaucho, io ho fatto. Siamo in onda. Ti chiedo scusa. Ho capito, non siamo al bar, siamo in onda, una cosa un po' più. Oggi già non ci conoscono gli ascoltatori. E quindi. Ho letto il messaggio dell'amico. Dell'amico. Quello della montatore. Ma no. Vabbè, comunque, stringi che il tempo è poco che ci gioca da fare cose mie. Sì. Anzi, vuoi andare subito? No, ti spiego perché, come ti ho detto, che comunque vi siete comportati male, perché la questione è semplicemente una. Tu mi hai detto. C'hai voglia di fare l'amore? Detto, c'hai voglia di fare l'amore? C'hai voglia, già detto, ti ho chiamato. Mi piacerebbe capire in che situazione te l'ha chiesto, però vabbè. Io gliel'ho chiesto, si vede che gliel'ho chiesto. Stava passando vicino al muro. Non riesco a negare tutto quello che dico, cioè. Okay. Cosa teme? Comunque quello che poi te lo spiego dopo. La questione è che ho preso la mia macchinina e sono andato su Amsterdam. Amsterdam. In Olanda. Esatto. Che voi mi avete detto, vai, l'amore è libero. Là c'è l'amore proprio, liberissimo. È bellissimo. Sono arrivato con la macchina, avevo una fame, minchia, che non ce la facevo più. Sono entrato in uno di quei coffee shop. Bravo. E lo so che tu te ne intendi pupillina. No, ma io leggo. No. Gaucho, c'è una pupillina internet. Che. Guarda. Com'è la pupillina? Fessurata? Sedicinoni. Datevi da fare. Cioè, se Linus va sulla televisione, anche voi potresti anche andarci. Però guarda che ne basta uno. Stringiamo che. Vai, morale, sono. Voglio arrivare al dunque. Coffee shops. Ho cominciato a mangiare un bel risottino con sti cazzi di funghi. E mangio un piatto. Esatto. Minchia, mi viene più fame. Ma può essere? Cioè, puoi, no? Ne mangio un altro piatto. Ancora? Sempre più fame. 7-8 piatti, una fame come. 8 piatti di funghi, cioè, incredibile. Questi funghi sono un po' bastardini. Il problema del fungo è che mi ha fatto venire su una minchia. Da paura. Ok. Allora ho detto, faccia come mi dice l'amico Gaucho, non sono mica andato in uno di quei posti all'amore libero. Che lui li conosce. Libero, certo. E lui li conosce, Gaucho. Vieni italiano, bello italiano. Sono entrato, ho cominciato a cavare. Ho fatto 6 mesi di cavate. Però. Fantastico, l'amore libero. Complimenti. Senza mangiare niente. C'è un problema, pezzi di infami. Qual è il problema? Che alla fine mi ha messo fuori il conto. Certo. Vorrei anche vedere del resto. Lavorare 6 anni come portinaio, ecco, in un bordello. Ecco perché non ti ho più sentito, ecco perché non ti ho più visto, ecco perché ero così contento. Ho studiato, ho lavorato, mi sono impegnato, ci ho dato dentro di brutto, ma alla fine veniva tutto a puttane. Ok, va bene, non può essere che altrimenti che così, veramente. Grazie. Comunque, ti posso consigliare un altro posto se vuoi. Riga. Ma no! No! Meno male che è notte, quasi sera, cioè il bambino a letto. Spegnete. Posso salutare? Saluta. Voglio solo dire una cosa, mi avete tolto Rock FM. Meno male che è rimasta la fica. Basta. TV. Rock is dead. Chissà come mai. Invece. Canzone premonitrice. Premo. Tu premi? Premo, ci stanno premendo perché sta per arrivare un personaggio nella nostra fantasia che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni. Era l'anteprima della chiusura della trasmissione, perché noi rivolgiamo una preghiera. Una preghiera a tutti quelli che hanno ascoltato Rock FM in questi anni, a tantissimi. Ringraziamo tutti quelli che hanno ascoltato Rock FM. Assolutamente sì. E per fare una preghiera ai nostri amici che ci hanno ascoltato, a tutti quelli che amano il rock, a tutti quelli che amano Rock FM in particolare, che è una radio rock, ma rock. Interessante, c'è un discorso, c'è un ragionamento. C'è una filosofia dietro in questa frase che non voglio dire altro. Ok. E abbiamo bisogno di un personaggio, un personaggio che ci guarda dall'alto con la sua forza e che naturalmente ci manderà tutti quanti in piedi e chi vuole anche in ginocchio, perché porta veramente molta fortuna. Uno può saltare anche. Esatto, può fare urlare. Le capriole. E mi ricordo che c'erano mamme che ci chiamavano e disperate dicevano e basta, per favore fermatevi, perché qua non è questa è verità, no, basta ragazzi, cioè è ora di finirla, è veramente ora di finirla. E noi la stiamo finendo. Mi sembra. È ovvio. Qualcuno ha raggiunto il suo scopo, finalmente. L'associazione Mamme per Bene hanno raggiunto il proprio scopo. Chiamiamo, è pronto, ci dicono pronto, che è pronto. Ci dicono che è pronto. Un attimino perché tutto il collegamento è un po' difficile. Vogliamo chiamare il grande reverendo. Wake up! Ciao reverendo! Reverendo James che ci guarda dall'alto. Aiutaci tu. Ci aiutava a finire la trasmissione con le nostre preghiere, i nostri pensieri. Ognuno può dire quello che vuole su questo momento e naturalmente su tutto quello che sta succedendo nel mondo, dove Rock FM non è niente. Non conta nulla, perché se pensate cosa succede nel mondo, Rock FM è un puntino che scomparirà e non farà del male a nessuno, mentre nel mondo le cose andranno avanti. E se anche le guerre, e se anche i mali, e se anche i bastardi morissero come con la facilità con cui si può chiudere un emittente che non fa del male a nessuno, tutto questo sarà perché è un puntino, un mondo felice. Il nostro puntino viene schizzato via da due dita, esce nell'etere e si riproduce e si riprodurrà, perché la voce del rock non si fermerà qua. Assolutamente mai. E il mondo sarà grato a questa radio, sarà grato a tutti quelli che hanno creduto in questa radio, a tutti quelli che hanno messo i soldi in questa radio e non gli sono mai tornati indietro. Guarda caso, perché ma questa è una radio. Chi è che ha messo dei soldi in questa radio? A parte noi. Momento di silenzio dovuto. E tutto questo è stato fatto per voi e voi ascoltatori ci avete aiutato a portarla avanti fino ad oggi. Le nostre lacrime stanno sgorgando a fiotti dagli nostri occhi e con questo voglio dire che si sta per concludere la nostra era. Il Gaucho Show finisce qui con Gramelzi, con il nostro amico Cacagno. Ciao, saluta. Ciao ragazzi. Non sanno chi sono, per cui non sanno neanche noi sanno chi siamo, cioè. Lo sappiamo, quindi non fa molta differenza. Posso ricordare di Chip, uno dei primi registi di Rock FM. Sì, ma mi sa che le persone che potrebbero ricordarsi di noi hanno qualche anno, diciamo, e hanno figli e non li fanno ascoltare il Gaucho Show. Ma i tasselli che ho comprato chi me li rimborsa? Ascolta, dammi lo scontrino che dopo parlo con Gravelli. Una frase tua su questo reverendo. Portatelo dentro. Il reverendo o Cagno? tutto il trenino. E allora ascolta, Gravelli, dammi la mano. Eccola. Dammi la mano. La tocchiamo. Parliamoci per mano. Il prossimo. Okay. Perché cinque dita. È il momento di passare, di fare il passaggio tutti insieme. Tutti quanti insieme. Andiamo. Facciamo questo passaggio. Ci hanno detto che al limite della nostra costellazione il Gaucho Show sta per iniziare. Sì. La prima puntata andrà in onda settimana prossima. Quindi chi vuole ascoltarlo può andare al limite della nostra costellazione. Esatto, sì. Però noi adesso ci trasformeremo in molecole di energia. Gravelli, dammi la mano. Ci sono. Ci siamo. Ci siamo alziamo tutti. Alziamo il volume al massimo perché questo è il momento

heads, he thinks we're all crooks. Mr. Cab Driver reads too many storybooks. Mr. Cab Driver passed me up with eyes of fire. Mr. Cab Driver thinks we're all 165ers. Mr. Cab Driver, fuck you, I'm a survivor. Ascoltare il gaucho, aspetta, perché sennò non se ne va via più. Fai, dillo, dillo. Ma adesso non ho, vedi che adesso non ha il coraggio, mamma mia. Pezzo di fica! Ok, ragazzi, non era, questo è il prezzo da pagare, altrimenti non ce ne liberavamo più. Stavo dicendo, grandissima emozione per il gaucho show. Adesso invece un'altra grandissima... Scusi padlone, l'ho dato a te sto padlone. Grazie. Allora, oggi stiamo incontrando dei personaggi che non vedevamo da anni. Ed è veramente una grandissima emozione, perché io quando ho iniziato qui in radio, al mattino ero preceduta da un uomo meraviglioso. Non è cambiato di una virgola, è rimasto uguale, Stefano Monticelli. Di cosa hai detto prima? Intanto ciao a tutti. No, ho detto, se è possibile, è diventato molto più bello ecco. E molto più muscoloso. No, perché detta come l'aveva detta prima, sembrava che quando lei ha cominciato qui io ero già vecchio, quindi adesso dovrei essere... No, mi precedevi in senso di orario, tu facevi... Dalle 8 alle 11 mi pare. Dalle 8 alle 11. Con Max in regia. Con Max Guerino in regia. Non mi ricordavo il piano stasera per salire. Io ho dovuto chiamare Garavelli. Marco, a che piano è? Sempre quello. No, è bello che siamo entrati insieme. Io sono salita, ho portato il cagnolino, ne hanno fatto mille giri. Lui non era ancora arrivato. Perché entrando, vai a sinistra, vai a destra. Lui è andato. Sono andato a salutare i vicini perché sembrava corretto. Giustamente. Stefano Monticelli, da quanto manchi ai microfoni di Rock FM? Dunque. 1996. Sì, 96. Quanti anni hai trasmesso qui alla fine? Un paio di anni. Sì. Poi è arrivato Ilario, eccetera. Poi è arrivato Ilario e così via. E poi cattivo ci hai abbandonato. Ma no, in realtà, guarda. Posso dirla? Allora, è successo questo: che io mi divertivo moltissimo a fare. Diciamo dove eri andato, poi dove sei andato. Sì, poi a un certo punto mi chiamò Linus a Radio DJ, ma non per andare in onda, perché stava ricostruendo. Era la seconda repubblica di Radio DJ, aveva bisogno di persone che gli dessero una mano e mi chiese di andare. A quel punto dissi, vabbè, se chiesi a Linus, guarda che io trasmetto a Rock FM, se a te va bene io farei le 3 ore al mattino e poi vengo qua a lavorare. D'accordo anche con Garavelli. Certo. È però l'editore di all'epoca. A un certo punto, capo de capis, dall'alto disse, no Monticelli, questa è commistione. Va bene, allora a quel punto purtroppo... Le strade si decidere, sono separate. Ma per una questione soprattutto... Beh no, devo dire che... Ma allora posso dire questa cosa? Secondo me. Se non la dici adesso non la dici più, Secondo me è chiaro che stasera è una serata molto triste perché stiamo chiudendo. No, non è triste, siamo tutti. È allegra. Guarda, sono tutti ubriachi. Perfetto. Di là, quindi. Di là, sì. Io penso che la natura è cambiamento. La natura rotola, la natura ad ogni momento ti sorprende, nel bene o nel male. Magari una cosa, c'è un vecchissimo, un antichissimo proverbio giapponese che non vi sto a dire, che grazie. Però, ecco, no, anche perché veramente, perché però dice, questa cosa è bene o è male, chi lo sa? Quest'altra cosa che mi è successa è bene o è male? Chi lo sa? Il fatto che chiuda Rock FM è bene o è male? In questo momento ci dispiace a tutti, ma magari questi semini che si spargeranno da domani servono in avanti servono a far nascere. Certo, perché sono nuove idee, sono pietre che rotolano. Hai capito come te l'ha servita, Gravelli? Hai visto? Ne sa una più del diavolo. My sweet Lady J, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love. Lady J, my dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady J. Monticelli ha scelto una canzone meravigliosa questa sera. Sympathy for the Devil. Sì. Perché sì. Oggi tutto il giorno i nostri ospiti, quasi tutti, hanno scelto una canzone dei Rolling Stones. Quindi... Mi piaceva la metafora delle pietre che rotolano. In questo momento si è come aperta una diga e le pietre rotolano. Tra adesso, mentre il disco andava, parlavamo con Claudia di che cosa fare da adesso in avanti. Non è importante cosa, l'importante è fare. Tu non sai come il tuo futuro sarà da qui a 15 giorni. Comincia a fare un pezzettino alla volta, è come quando cammini. Un pezzo alla volta, poi dopo magari ti trovi... Perché strada facendo capirai che non sei più bambina, mi viene in mente. Vabbè, allora citiamo, esatto, citiamoci addosso. Tra l'altro, mentre parlavamo prima con Marco, mi ha ricordato questa cosa, una tua immagine. È vero, tu arrivavi al mattino in radio con il quotidiano. Una delle primissime cose che Marco mi diceva in onda: Claudia, leggi, Claudia il quotidiano, Claudia, leggi, Claudia il quotidiano, guarda Monticelli che bravo che è. Pensa che invece adesso non lo leggo più. Cioè, ormai sei troppo acuto. No, mi sono stufato. No, mi sono stufato perché. Di cosa succede fuori nel ma mondo? No, perché ci sono troppe cattive notizie, cari. Adesso è ovvio, è una banalità quella che sto dicendo. Però, cioè, non è che esistono solo quelle robe lì. Però è vero, allora sì, era così. Senti, bello. Tu come ricordi il tuo programma, di cosa parlavi, che musica proponevi, com'era il tuo, i tuoi due anni qui a Rock FM? Sull'alternativo, le cose nuove inglesi, sì. Ma l'ho chiesto a lui. Sì, sì, però Marco ha ragione, lui ogni tanto mi cazziava. A proposito, è rimasta celebre una tua frase durante un'intervista: ma si guadagna bene a suonare? È vero, è vero. Te ne ricordi questa bella inglese? Per anni. Ce la siamo portata dietro. Ce la siamo portata dietro. O Manson o cose del genere, dovevano essere. No, forse con Greg Dulli dei... Dici? Sì, dei Afghan Whigs. Sì. Infatti credo che lui mi avesse mandato anche a cagare. E ricordo che poi per anni, magari quando arrivavano diversi ospiti, ogni tanto dicevo: Marco, scusa, cosa posso chiedere? Lui diceva: ma chiedimi se si guadagna bene. E questa è rimasta una cosa storica per quanto riguarda le celebri frasi di Stefano Monticelli. Ma pensa, io non sapevo di essere rimasto così. Sì, ma cioè, no. Mi sono rimasto impresso per una questione venale. Vedi? Sì, sì. Tu arrivavi col quotidiano, invece poi ti abbiamo ricordato per una frase. No, invece prima parlavo con Claudia e con Cristina giù del perché chiudono una radio come Rock FM. Se tu ci pensi che a 100 metri da qui hanno raso al suolo un parco che era stato donato perché rimanesse parco e invece lo hanno raso al suolo per farci dei grattacieli, per farci una rotonda, no, per perché dalla rata stanno togliendo tutti i parchi per farci le rotonde, allora, quindi la domanda sul perché Rock FM viene chiusa non trova risposta. Ma è quello che dico anch'io quando gli ascoltatori o la gente in generale mi chiede: ma perché chiude Rock FM? Io onestamente non so cosa dire, cioè no, in realtà dico delle cose, però non trovo una risposta sensata e logica a questa domanda, perché in realtà quello che sta succedendo secondo me non ha una logica. Però vabbè, questi sono altri discorsi. Vabbè, comunque, chiude Rock FM perché nascerà qualcos'altro, per lasciare spazio a qualcos'altro di più bello. Vabbè, sai già tutto tu, allora. Io... No, io sono sicuro. Sai, lei guadagna bene, vuole un aumento di stipendio a quel punto, eh? Ah, sì, sì, scusami, sì. Ma in realtà la radio, oggi hanno detto, la radio chiude perché, no, stavo dicendo questa cosa, noi per alcuni mesi, ai tempi, siamo andati in onda senza stipendio. Questo succede anche a me. Ma certo. E allora i ragazzi scherzando dicevano: certo, noi non prendevamo lo stipendio per dare tutti i soldi a te, ed è per quello che la radio chiude. In realtà non è proprio così, però vabbè, comunque sono dettagli. Claudia, consolati, sono corsi e ricorsi, questo succede anche a me, a volte non prendo lo stipendio. There's a sound, a muffled cry below the ground. There is a poison in the air, a mix of chemicals and fear. My words are just punches, I'm not sure what they mean. You're asking for commitment when I'm somewhere in between. Never, never try to gauge temperature when you tend to starve of absent speed. Oh, that's the tea. Hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict, I was serene. I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist? finire, anche perché quelle ve le potete tranquillamente poi ascoltare a casa. Le nostre voci tra un paio, tra diverse ore, non le potrete più ascoltare. Allora, Stefano Monticelli qui con noi. Stefano ha trasmesso Rock FM dal 1994 al 96, sì. Per due anni è stato... Cosa è successo? È Fabio Treves che si diverte a farci gli scherzi. Tu devi sapere quel trombone. Stefano, tu devi... Allora, c'è una storia dietro quel trombone. È il classico trombone che ti fa prendere l'infarto. Però i bastardi, quando usavano questo trombone, quando tu eri felicemente seduto sulla tazza, quando, è il momento in cui sei bello rilassato. Abbiamo sentito tante urla provenire da qui. Loro facevano il giro. Da quegli uffici. Uscivano sul nostro pianerottolo, caricavano il trombone, poi boom, meglio essere trombati da un trombone che da Treves, o no? Allora Stefano andava in onda ogni giorno dalle 8 alle 11, c'era Max Deriu in regia, ti rendi conto che poi Max Deriu è diventato parte fondamentale di questa radio, conto? Sì, pensa che la cosa curiosa e anche bella è che c'è, vabbè, è evidente che ho passato parecchi anni a Radio DJ, dove ultimamente c'è tanta gente che ascolta Rock FM ed è molto bello. Beh, per esempio la Sara, che è l'assistente di Linus. Vabbè, la Sara è la nostra amica, è una fan, cioè è tutto questo è molto bello. Tra l'altro ho scoperto che stamattina Linus ha parlato, parlato di noi. Grazie, oggi ringraziamo, portaci. Io non ho sentito, però pare che abbia detto delle cose molto carine. Ma sì, perché comunque, a parte che anche lui è passato da questi locali, quindi Rock FM o 101 è sempre la stessa famiglia, no? Io ho un altro piccolo aneddoto. Vai. Tantissimi anni fa, quindi ritorno a Radio Peter Flowers. Era agli inizi, era ancora in San Michele del Carso. Un pomeriggio suonarono al citofono, entrarono Linus e Albertino. Fantastico. Erano da Radio Music all'epoca. Pensa a te. Per cercare di proporsi a Radio Peter Flowers. Peter Flowers è stata un'altra di quelle... Forse Peter Flowers è stata la radio che mi ha fatto innamorare della radio. Perché era un modo di proporsi differente da quello che c'era in onda. Infatti ti volevo chiedere proprio il tuo rapporto con la radio, visto che ci lavori ormai da tantissimi anni, hai fatto programmi, adesso lavori lavori a Radio DJ, ma dietro le quinte. Sì, no, io adesso non lavoro più a Radio DJ. Infatti, quando ho detto che sapevo che veniva qui, ho detto no, allora, allora basta. No, la cosa pazzesca è che poi dopo Rock FM non sono più andato in onda. Infatti, hai capito? Non ti ha preso più nessuno. No, esatto, è esattamente così. Infatti, quando Linus ha sentito il mio provino, ha detto: Monticelli, vai pure, rimani a trasmettere Rock Monticelli, FM, ci sono problemi. In onda fai cagare, però se vuoi mi puoi dare una mano qua. Allora perché adesso vedi che bastardi, hai capito? Adesso te la Sara. Così. No, comunque il rapporto è sempre stato come quello quando hai un'amica bellissima che, con la quale vorresti fidanzarti. Questo sono stata io per te. E non ci riesci, esatto, e non ci riesci mai, perché dopo Rock FM alla fine ho sempre lavorato dietro le quinte, ma confesso, e lo sanno, chi mi conosce lo sa, sempre con la voglia di andare in onda a fare delle cose. Mi è anche riuscito ultimamente, però mai definitivo, non ho mai giocato in prima squadra, ecco, questo è... Però chi se ne frega. Come hai detto tu, poi si semina e magari più avanti... Come saggio! Vai! Guarda che Garavelli, insomma, sai che tra pochissime ore è il suo compleanno? Molto bene, ti faremo gli auguri. Grazie. Explode! Dell'ottima musica questa sera. Mi spiace interrompere le canzoni, però qui ci sono tutte veramente, lo so, tutte, ragazzi, sempre la solita, vabbè, insomma, dopo non le ascoltano più, ci ho già preso gusto.